Ho accolto l'invito del Presidente della Repubblica a proseguire nell'attività di governo fino alle elezioni e fino al successivo insediamento di un nuovo governo, attività che sarà naturalmente limitata all'ordinaria amministrazione. Come noto, ciò non era nelle mie intenzioni e nei miei auspici, visto che ho fortemente sostenuto il tentativo portato avanti dal Presidente del Senato per trovare un ampio consenso sulla riforma elettorale. Ho tuttavia accettato questa responsabilità anche in considerazione del fatto che sia la maggioranza sia l'opposizione hanno chiesto che sia il governo da me presieduto a compiere questa ultima parte del cammino della legislatura.